17 gennaio 93, ore 20:30, durante il bombardamento di Baghdad. A Radio Popolare, Scaramucci segue alla CNN gli avvenimenti di Baghdad. Vede il cielo illuminato dai traccianti antiaerei. È perplesso. Commenta. Secondo il Pentagono, l'attacco è finito 10 minuti fa. Se questo è vero, allora la contraerea sta sparando a vuoto. Inappuntabili. Però l'alternativa sarebbe, se l'attacco è in corso, come pare, allora il Pentagono ha mentito. Eh sì, fra lo sparo a vuoto di Baghdad e lo sparo a pieno di Washington, Scaramucci ha scelto. Poco più tardi intervistano l'esperto di cose militari, tutto maiuscolo. Vogliono sapere che cosa esattamente sia un cruise e quale sia la sua potenza distruttiva. L'esperto, voce scientifica, dà le misure, dà le singolarità tecnologiche, virtuali o reali, poi conclude: quanto alla potenza, si sa che la testata di un cruise contiene circa 500 kg di tritolo. È una buona potenza. Perfetto. Però, buona potenza. Io l'avrei chiamata, che so, spaventosa, devastante, terrificante, sconvolgente, brutale, violentissima. Ma sì, dipende dal punto d'osservazione. Per me, che da questi ordigni mi aspetto solo morte, la potenza di un cruise è necessariamente collegata al male. Secondo un'equazione nota a ogni essere vivente, morte uguale male, vita uguale bene. Ma mettetevi nei panni di un esperto di cose militari. Prima di tutto, queste cose, tra cui i cruise, gli procurano il vitto e non possono quindi non destare in lui sentimenti di simpatia. E poi, si sa, in ogni ramo tecnologico, i prodotti migliori, cioè più buoni, sono quelli più tecnologicamente avanzati. Quindi, 500 kg in testa, capaci di scavare un cratere di 50 metri e di ammazzare nel raggio di 500, sono una buona potenza. Niente da eccepire. E così via tutta la sera, fra dichiarazioni di Washington, interviste a esperti di cose militari o meno, commenti glaciali su colpi, fuochi, morti, alberghi, moschee. Niente da eccepire. Radio Popolare deve stare addosso alla notizia. Però ricordo una storiella del 1940. In un caffè un vecchiotto legge il giornale. Dà un'occhiata alla prima pagina e sospira. Ma. Dà un'occhiata alla seconda e sospira. Ma. Il gerente, picchiando il palmo sul banco: signore, in questo locale non si parla di politica. Oddio, che il 1940 sia ritornato. Filippo Franceschi.